voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah. Non pensi solo che sono stupido, che nel mio petto cuore io non ho. Forse bevo ma io non ti giudico, nella vita tu sei tutto quel che ho. Voglio solo rock and roll, don't see no. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah. Voglio solo rock and roll, don't see mama. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah, yeah. Dio solo sa quanto tu mi odi, grazie a Dio non credo in Dio, i miei giorni sono pochi, no. Vivo il presente e spingo sempre al massimo, quanti sbagli e promesse solamente astio. Tu non mi puoi vedere, tu non mi vuoi cercare, eppure chiami di continuo sul mio cellulare. La vita è strana come tutto qui può capitare, sono passati 10 anni e tutto è come tale. La tua vita è troppo easy, io die hard. Tu non ancora non capisci, no, vita da star. Quanto vorrei convincerti a Jore de Mar, portarti via da qui, io sono la mente dentro un bar. La vita è questa, mami, qui niente si ripara. Il tuo nome in testa, vaso rotto, non si ripara. Lei ti detesta, il male, il dolore non si impara. Vivo di fretta, la vita mia è una gara. Voglio rock and roll, don't see mama. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah. Voglio solo rock and roll, don't see mama. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah. Ho pensato solo ai soldi, al successo. L'ambizione domina il ragazzo. Vuole donne, potere, la gloria. Essere numero uno in questa storia. Ho lasciato indietro gli amici, ho lasciato indietro te. Ora che i sogni si sono infranti, rimane sabbia, sudore, polvere. Ho pensato solo ai soldi. Ho pensato solo ai miei soldi. Ho pensato ma non pensavo. Ho pensato ma non pensavo. Ho pensato solo ai soldi. Ho pensato solo ai miei soldi. Ho pensato ma non pensavo. Ho pensato ma non credevo. Voglio solo rock and roll, don't see mama. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah. Voglio solo rock and roll, don't see mama. Voglio vivere la mia vita, no drama. Voglio vivere così, yeah. Voglio vivere così, yeah, yeah, yeah. E non è scritta la mia vita che si fotta al mondo. Ho rinunciato, lo si dica, ma io spingo a fondo. L'amore sacrificato solo per il mio sogno. La mia ambizione mi divora, è quello che ho bisogno. Io voglio solo rock and roll dentro la mia vita. Tu sei liscio mentre io sono heavy metal. La vita a rischio, volo, io voglio la mia meta. A me non basta, io voglio l'intero pianeta. E niente è semplice, piccola come un puffo. Tu velenosa, insidiosa come un fungo. Io amo la tua voce, sirena, tu mi vuoi a fondo. Io marinaio perso, non so più che cosa voglio. Eppure tu hai cambiato ancora la mia vita. Hai distrutto tutto quello che amavo, chica. Fiore rosso a dormire insieme, domenica. Niente a posto, il mio cuore ancora qui ti cerca.